38. In piedi sul pontile, avvolto in una pesante coperta rossa, Joseph guardava battaglie di pescatori mettere la prua verso nord, verso l'estuario e il mare aperto. Solo pochi risalivano la corrente. Tempo di migrazioni. Il cielo era solcato da stormi di uccelli di passo. Quanto erano lontani da casa! Sulle prime Joseph aveva accolto la decisione con stupore. Suonava come il discorso di un folle. Non Forza Niagara, ma Londra, farsi ricevere dal ministro delle colonie, se possibile da Re Giorgio in persona. Durante il passo degli uccelli migratori c'erano specie che andavano verso nord, in direzione inversa rispetto al flusso di ali e penne che solcava il cielo. Volatili figli dell'inverno che si rifugiavano tra le sue fauci gelide e spalancate. Se il Signore aveva concesso tanto coraggio e resistenza dei pennuti, tanto più doveva averne concessa all'uomo o almeno a certi uomini, pensò Joseph. Osare era diventato necessario. La tenaglia che stringeva il popolo della selce andava recisa dal manico. La mossa disperata di Guy Johnson poteva tornare a vantaggio suo, dei Mohawk e delle Sei Nazioni. Il commissario aveva bisogno di lui e non lo nascondeva. Se voleva mostrare di avere gli irochesi dalla sua parte, doveva portare con sé dei rappresentanti della Lega. Se fosse riuscito a farsi ricevere a corte, Joseph avrebbe potuto strappare impegni diretti, garanzie concrete sulle terre e i confini da rispettare. Hendrick c'era già riuscito, molti anni prima. Portavano in dono il capo dei ribelli, scortato dal guerriero che lo aveva catturato, un giovane Mohawk, figlio del grande William Johnson. Non era follia immaginare una buona accoglienza a Londra. Risalire la corrente fino al cuore di ghiaccio dell'impero era un atto di coraggio, non di stolta incoscienza. Dal pontile Joseph aveva osservato i barcaioli a Benachi allestire due canoe. Scortavano Daniel Klaus e Philippe Lacroix, alla volta di Oswego, per recuperare le donne della famiglia Johnson. Meno di 20 anni prima, gli uomini di quella tribù combattevano a fianco dei francesi contro i Mohawk. Oggi prendevano ordini da Le Grand Diable, il più temuto dei nemici di un tempo. La squadra era partita alla svelta in sordina. Meglio evitare che troppe voci solcassero il fiume più in fretta di loro. I familiari dei Johnson erano merce preziosa. Quando il piccolo convoglio aveva preso l'acqua, Joseph e Lacroix si erano salutati con un cenno d'intesa, come erano soliti fare anni addietro. Nelle ultime settimane il loro legame si era rinsaldato. Come sempre, le visioni di Molly si rivelavano di impressionante chiarezza. Un rumore di passi ridestò l'attenzione di Joseph. La sagoma di John Butler si avvicinava. Il vecchio soldato lo affiancò. «A Forte Niagara, tu e Lacroix, mi sareste molto utili», disse. «I Seneca ammirano il coraggio». «Sono un uomo del dipartimento», rispose Joseph. «Ho dato la mia parola a Guy Johnson». L'irlandese annuì. «Spero che tu non debba pentirtene. Dio ti assista, Joseph Brent». Joseph strinse la mano che Butler gli offriva. Gli stormi proseguivano la rotta.